gorilla, tu tieni la bucchella, nu poco poco gorilla, passuriatella. Me, dammilla, dammilla, ecco manna rusella, dammilla nu fasilla, dammilla cannetella. Dammilla pigliatillo, no vaso picciorillo, no vaso picciorillo, come che sta bucchella capare una rusella, nu poco poco rilla a passuriatella. Dammi le pigliatilla, no vaso picciorilla, no vaso picciorilla, come questa bucchella capare una rusella. Nu poco poco la passuriatella. Sì, tu tieni una bucchella, nu poco poco rilla, a passuriatella.